invece mi riferisco a un'altra cosa ancora che abbiamo scoperto di essere anche un po' avanti, per sbaglio, su questo tema qua, perché in Val di Susa un amico, giocando su internet e dialogando in inglese con un cinese, ha effettivamente riuscito a importare una Mate 3 via da cinese. Da noi ne hanno importate tre, però quest'anno. Piccola, a tre ruote. No, senza ruote, grande come una motocariola, quindi larga un metro. Quindi non un 80, perché già per me un 80 è improponibile su 80% dei terreni che abbiamo. Chiaramente è una roba cinese che vale quei 1500-2000 euro che l'ha pagata, ha pagato più di trasporto, di sicuramento che di... No. La prima volta l'abbiamo usata si è rotta in più punti, ci abbiamo messo una settimana per capire pezzi comunque fatti alla buona, però siamo riusciti, capendo il primo anno i difetti, aggiustando, cambiando dei pezzi, a farla funzionare. Ha dei limiti, adesso lavoreremo per costruirne un'altra, perfezionarla, però quello potrebbe essere, diciamo, il futuro, no? Possibile, che una roba larga un metro e mezzo, che questa pesa un quintale, un quintale e mezzo, niente di paragonabile a roba da 90.000 euro, 1,80 m, eccetera. Però in effetti ci sono questi esperimenti che sono lì, buttati sparsi, non si parlano tra di loro perché non sanno l'esistenza uno dell'altro. Certo. E quindi ognuno ragiona un po' come riesce. Però sarebbe bello, non dico brevettare, ma trovare una soluzione che poi sia disponibile a tutto l'arco alpino e non solo, perché c'è la voglia di recuperare territori, di recuperare varietà, ma è quello l'ostacolo principale. Quindi in questo senso dobbiamo poi rimanere in contatto, scambiarci le conoscenze, perché... Certo, no, ma certo, è su quel terreno lì che possiamo sfondare. Volevo fare una brevissima domanda, no? Tu hai parlato all'inizio di abbandono dei terrazzamenti. Volevo capire che rapporto c'è con gli enti locali, no? Nel senso, l'ente locale, che dovrebbe essere quindi una struttura molto vicina, no? C'è oppure è latitante? E visto che parliamo di Veronelli dopo, cioè Veronelli a suo tempo aveva teorizzato la DECO, no? Che non è soltanto penso, certo, che sapete benissimo che cos'è, ma secondo me è il grande coinvolgimento dell'ente locale per promuovere il proprio territorio, la salvaguardia oltre che il prodotto, no? Avete lavorato, avete pensato qualcosa in questa direzione? Allora, sicuramente dopo Terra e Libertà Critical Wine, la DECO con Gino Veronelli ha preso un'impennata molto interessante. Il problema è che molte DECO sono diventate un po' una cosa ibrida, cioè il problema è sempre questo, sono le persone che fanno le cose. Se trovi delle persone che sono disoneste, ti fanno diventare DECO quello che non meriterebbe di essere DECO. Noi abbiamo una situazione in Valtellina, purtroppo, che la maggior parte dei nostri amministratori sono sempre stati attenti più all'edilizia che al mondo contadino. Abbiamo una situazione dove, a differenza della Svizzera, la figura del contadino è la figura della persona povera, misera e così via. In Svizzera il contadino è una figura nobile, è una figura a cui viene riconosciuto il fatto che mantiene il paesaggio, è finanziata per questo. E qua dovremmo aprire una parentesi grande come una casa, nel senso che c'è mancanza di governance del territorio da parte delle istituzioni. Noi abbiamo l'agricoltura che non fa i numeri che fanno magari i vignaioli o che fanno i produttori di mele, che è la maggior parte degli addetti in agricoltura in Valtellina, che da questo punto di vista ha solamente un incentivo e un aiuto che continua in questa maniera. C'è l'assessore all'agricoltura Gianni Fava che sta facendo, sarà già la terza o quarta volta che viene in Valtellina a promettere soldi a tutti, ma individualmente. Non c'è un progetto territoriale, questo manca. Le istituzioni si stanno muovendo perché noi stiamo dimostrando nel nostro piccolo di fare delle cose serie, che stanno sviluppando non solamente qualitativamente la valorizzazione del paesaggio spendibile dal punto di vista turistico e tutto, ma è un discorso che faccio sempre, ad esempio è: tutti gli albergatori, chi offre turismo in Valtellina mette le fotografie del paesaggio. ma non si preoccupano mai di andare a verificare chi mantiene quel paesaggio e cosa fanno. Cioè, a noi basterebbe per riuscire a rilanciare un'economia nostra territoriale che ogni albergatore o ristoratore prendesse almeno 10 kg di farina, 20 kg di farina da ogni produttore per fare i pizzoccheri. Noi a Teglio abbiamo il paradosso grandissimo, abbiamo un mulino Todori e un mulino Filippini che sono tra i grandi importatori, se non i più grandi importatori di grano saraceno italiani. Noi in maniera paradossale stiamo tenendo su le balle a loro, come si dice, e l'Angelo Tudore, che è anche un amico perché andiamo a far analizzare da lui, che è dal punto di vista dei macchinari, delle analisi, sono avanzatissimi, ci dice sempre: ragazzi, da quando si parla del vostro grano saraceno io ho aumentato le vendite. Certo, lui mette sul canne tutto grano saraceno di Valtellina, ma tutto grano saraceno arriva o dalla Polonia o dall'Ucraina, dalla Germania, dai paesi dell'est. Non c'è una produzione in Italia che valga la pena. Nonostante il fatto, loro hanno il marchio della spiga sbarrata, per cui fanno tutti i prodotti per celiaci. Ma io ricevo più o meno al mese un paio di telefonate da celiaci che mi chiedono se c'è un grano saraceno italiano, se è possibile acquistarlo e tutto. Poi chiaramente lo vogliono sgusciato, lo vogliono in granelle. Noi non abbiamo questa tradizione, non abbiamo i macchinari per sgusciare il grano saraceno e non riusciamo a fornirlo in questa maniera. Allora, noi lo chiamiamo decorticato, però ho capito da un ingegnere ucraino che non è la decorticatura, perché la macchina per... Noi l'abbiamo provato a decorticare con una decorticatrice, la mettava in farina, cioè si rompe tutto. Loro hanno una macchina, mi ha spiegato, che è sgusciatrice, perché è più o meno la stessa macchina che usano per sgusciare i semi di zucca e i semi di girasole. Per cui sguscia il seme, la decorticatrice lavora per centrifuga, le pareti in corindone, in carta vetrata in sostanza, e gira dentro il seme. Quello che prendete come orzo perlato e perlato è rotondo così, perché l'orzo in natura non è rotondo, è perché continua a girare dentro, gli levano tutte le proprietà, poi, perché se l'orzo è buono va mangiato con le bucce, dove ci sono proteine, vitamine e tutto. Ecco, abbiamo questi problemi anche tecnici poi per offrire. Certo, ci sarebbe da considerare il fatto che il grano saraceno potrebbe diventare importante anche coltivarlo qua, seminarlo e tutto, un po' per le proprietà che ha dal punto di vista nutraceutiche, cioè proteine nobili, è ricco di quercetina e di rutina che ossigenano il sangue. Tenete presente che in Canada la maggior parte del grano saraceno viene utilizzato per estrarre rutina e quercetina e fare medicamenti per i cardiopatici e per chi ha le vene varicose o cose del genere, per cui è un alimento sicuramente che va riqualificato dal punto di vista anche alimentare, come la segale addirittura, che anche questa è uno dei nostri alimenti nutraceutico molto, molto valido. Tutti questi aspetti qui sono legati chiaramente alla possibilità di riconoscere da parte delle istituzioni, ad esempio, il valore di questi territori. Adesso, diciamo, in questo lavoro che abbiamo fatto in 15 anni, abbiamo un po' inchiodato al muro questi nostri amministratori locali. Perché? Perché 9 anni fa un professore dell'Università Bicocca di Milano, Scienza della Terra, Sergio Sgorbati, che è un conoscitore della Valtellina, una sera stavamo facendo una polenta, mi ha detto: beh, se questo grano saraceno è presente dal 1500, sicuramente ha modificato il proprio DNA, 90 su 100, se non 99 su 100, dovremmo riuscire a fare un'analisi per verificare se è diventata una varietà tra le varietà presenti sul pianeta. Cosa abbiamo fatto? Da allora ci siamo mossi in 3-4 persone, abbiamo raccolto, siamo andati veramente a fare una raccolta quasi casa in casa, nei paesini dove ci indicavano che lì c'era qualcuno ancora che seminava grano saraceno. Abbiamo preso tutti questi campioni, ne abbiamo raccolti 14, da Rogorbello fino a Postalesio, diciamo cosa sono, 50 km, 60 km più o meno di distanza in valle sulla parte retica, abbiamo raccolto questi campioni. li abbiamo seminati. Lui è riuscito a trovare un progetto che coinvolgeva, che ha coinvolto e coinvolge l'Università Botanica di Pavia e Agronomia Genomica di Padova. Hanno analizzato 7 tipi, 2 tipi nostri valtellinesi sono diventate 2 varietà nuove nel panorama mondiale, perché hanno un DNA differente. È chiaro, con questo, allora la pubblicazione scientifica, adesso è ufficioso quello che vi dico, perché la pubblicazione scientifica è da adesso fino a gennaio in giro per il mondo e loro aspettano di ufficializzare tutto quando avranno una risposta a livello internazionale su questi studi fatti. Certo che se la risposta arriva ed è positiva, noi è la prima volta che Valtellina, provincia di Sondrio, la Lombardia tutta, l'Italia tutta ha 2 varietà di grano saraceno italiane. Con questo noi ci siamo un po' mossi andando a insistere con alcuni. Chiaramente le cose negli anni cambiano perché cambiano gli amministratori, roba freschissima, Tirano, che un grano saraceno è nostro di Teglio, diciamo, un altro è di Tirano, di un paesino, di una frazione che si chiama Baruffini, che è proprio in cima, cioè in cima, a metà montagna, così sospeso un po' in alto. Parlando con lui, è venuto a visitarmi, avevamo parlato quest'estate, mi ha chiamato, mi ha detto che adesso vogliono fare un progetto di ecomuseo legato ai cereali alpini, vogliono coltivare e promuovere il ritorno alla coltivazione dei cereali alpini, ha trovato dei giovani che sono disposti a intraprendere questa attività e tutto. Quello su quale ci dovremo muovere poi è sviluppare una filiera, che è una filiera tecnica, quella che diceva lui, per cui mettere in rete i macchinari. Io ad esempio mi sono fatto fare dei macchinari per pulire i cereali, sono venuto qua in pianura a prendere una pulitrice e poi ho preso una spietratrice usata e così via, un altro ha preso la mietitrebbia. Bisogna metterci tutti insieme. Per me un po' il concetto sul quale bisogna lavorare è quello dell'open source. Prendere lo stesso concetto e fare hardware open source, prenderlo e portarlo nell'agricoltura. Dobbiamo lasciare le sorgenti aperte, che sono i semi e tutto, mettere in rete le possibilità e le esperienze che fanno tutti, farle circolare, ma non solamente in Valtellina. Io sono andato in Cilento perché ho appreso tantissimo dagli amici del Cilento. Ad esempio, ho scoperto che in Cilento loro hanno già fatto un'indagine e hanno l'elenco delle biodiversità che hanno sul territorio. Fagioli, mele, grani antichi, animali, maiale nero, la mucca podolica che esiste anche nel resto del sud, ma loro ce ne hanno un tipo particolare, tutto. Allora, sono tutte, loro stanno ragionando sul rilancio di una agricoltura di qualità con le loro produzioni. Ecco, noi in Valtellina non ce l'abbiamo ancora questa cosa, ad esempio. Sì, ancora qualche intervento, poi andiamo a chiudere perché abbiamo anche un incontro dopo. Poi Patrizio resta qua, quindi se si vuole approfondire...